America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. And today I'm sending Congress a budget that will make sure you've got what you need to achieve your mission. It gives you the resources you need to carry out your mission in a way that is smart and strategic. And makes the most of every dollar. Barack Obama ieri mattina ha presentato il bilancio per l'anno fiscale 2015-2016. Ve lo ricordo, l'anno fiscale americano comincia nel settembre del 2015, dunque nel settembre di ogni anno, e il presidente manda questo bilancio con un messaggio preciso. Qui dice: mando questo bilancio al Congresso per garantire lo stanziamento di risorse per la vostra missione, vi darà le risorse per usare al meglio i dollari, per potervi dare gli strumenti adatti di cui avete bisogno. Ecco, non dimentichiamo che il presidente parlava dal Homeland Security, quindi dal Dipartimento per la sicurezza interna, per l'antiterrorismo, quindi è per prima cosa voluto indirizzarsi alle persone che lavorano contro il terrorismo e che dunque svolgono questa missione. Ma poi subito dopo ha aggiunto: c'è un progetto più ampio per il successo americano nell'economia globale, perché dopo la svolta verso la crescita, verso la creazione di lavoro a ritmo più elevato dagli anni 90, nel momento in cui i salari cominciano a salire, dobbiamo decidere che tipo di nazione vogliamo essere. Ecco, questo è il messaggio generico di Obama. Che cos'è il Blue Book? Lasciatemelo chiamare Blue Book, cioè il bilancio è chiamato Blue Book perché tradizionalmente c'era sempre una copertina blu. Ecco, ieri però, devo dire per la prima volta, la copertina è diversa, non c'è più la copertina blu, in copertina in effetti c'è un ponte, e il ponte è il Tappasin Bridge, che è poco a nord di Manhattan, forse 40 chilometri, ed è il più grande ponte dello stato di New York sul fiume Hudson, sul grande fiume Hudson. Pensate, questo ponte è lungo quasi 5 chilometri, nome che può sembrare strano. Tappan è il nome di una tribù indiana della zona e Zi vuol dire mare in olandese. Gli olandesi erano i vecchi coloni che arrivarono a New Amsterdam prima degli inglesi, un ponte antico dunque che dovrebbe essere ricostruito al costo di circa 4 miliardi di dollari. Ecco, per Obama questo ponte è simbolico di quello che vuole fare per il paese, di quello che deve fare il paese: aumentare le tasse per finanziare progetti come questo, dare lavoro buono a lavoratori che oggi sono sottopagati, ridurre la sperequazione, quindi prelevare dai più ricchi per restituire, redistribuire a coloro che oggi non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese. E prelevare dai più ricchi significa soprattutto tassare per esempio le banche, quelle banche che hanno asset superiori ai 50 miliardi di dollari, vuol dire aumentare le tasse sui guadagni di capitale, sulla successione. Insomma, c'è questo messaggio di prelevare, diciamo, dai più ricchi per restituire ai più poveri in questo bilancio di Barack Obama. Dunque sentiamo qual è stata la reazione del presidente del Partito Repubblicano Reince Priebus. It's sort of like him trying to write a legacy book for what he's done. Ecco, Priebus è molto chiaro, dice: no, più tasse, più spese, miliardi di nuovo debito, noi su questa operazione non ci stiamo, prepareremo il nostro bilancio, sarà un bilancio in pareggio che renderà il governo efficiente e responsabile. Ecco, la risposta formale, ufficiale, è stata, come dire, piuttosto dura. I repubblicani chiaramente non ci stanno con l'idea della redistribuzione dai ricchi verso i poveri, non credono in questa ingegneria sociale che parte dall'alto, credono nel mercato, credono in una redistribuzione, come dire, naturale. Ma dietro questa retorica della grande redistribuzione, però, devo dire che c'è un messaggio di forte sostanza in questo bilancio di Obama che il presidente ha articolato e su cui io credo possano esserci in realtà delle aperture da parte dei repubblicani, ed è un messaggio che ci riguarda direttamente in quanto Europa soprattutto e in quanto Italia. That's why I want to work with Congress to replace mindless austerity with smart investments that strengthen America, and we can do so in a way that is fiscally responsible. Avete sentito il presidente? Voglio rimpiazzare un'ottusa austerità con investimenti intelligenti. Senza vitali infrastrutture il paese è sia vulnerabile che miope, e possiamo raggiungere i nostri obiettivi in maniera fiscalmente responsabile. Ecco, mentre parlava ai repubblicani, Barack Obama ieri parlava, secondo me, anche all'Europa. Leggendo fra queste 2000 pagine ci sono almeno tre messaggi chiave che ci riguardano direttamente, quanto meno, diciamo, dal punto di vista politico, se non da quello strettamente tecnico. Sono messaggi che la Germania soprattutto dovrebbe leggere con attenzione. Il primo riguarda la continua necessità di procedere con una politica fiscale espansiva. Obama chiede che gli introiti derivati dalla nuova proposta di una tassa del 14% sui profitti che le aziende americane trattengono all'estero. Ecco, Obama vuole recuperare una parte di queste tasse e propone questa aliquota del 14%. Dove andranno gli introiti? A investimenti infrastrutturali, strade, ponti, autostrade. Si calcola che questi introiti possono essere pari a circa 260-280 miliardi di dollari in 10 anni. Secondo punto, in corollario del primo, i nuovi introiti fiscali non dovranno essere destinati all'abbattimento del debito, che pure ha raggiunto i livelli più elevati dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, ma appunto agli investimenti. La crescita, ci ha detto Obama, resta uno dei più importanti obiettivi, sicuramente molto più importante dell'austerità, quindi che la Germania ascolti questo messaggio. Vediamo in termini pratici, il debito americano ha raggiunto, questo calcolato solo sulla base federale, il 75% del PIL. Da qui ai prossimi anni si prevede un calo intorno al 73,3%, dunque non si vuole abbattere il debito. Perché? Perché è più importante la crescita in questo momento, ci sarà tempo dopo per farlo. Terzo messaggio di Obama, sempre legato alla questione fiscale molto centrale, e dopo essere arrivato negli anni più difficili fino al 10% del PIL, il disavanzo pubblico previsto per l'anno fiscale 2015-2016 sarà del 2,5%. Un bilancio in pareggio per ora non interessa a Barack Obama, perché è più importante sostenere l'economia. È importante perché, beh, diciamolo, il locomotore americano ormai corre da molti anni e la ripresa potrebbe diventare una delle più lunghe della storia, però sappiamo che i cicli congiunturali a un certo punto cambiano, e dunque nella prospettiva di un indebolimento da qui a qualche anno l'amministrazione Obama cosa fa? Sceglie di continuare a premere sull'acceleratore piuttosto che sul freno. Di nuovo il messaggio: la crescita è meglio dell'austerità, e questo messaggio Barack Obama lo ha ripetuto esplicitamente all'Europa in un'intervista con Farid Zakaria nel fine settimana. Sentiamo. You cannot keep on squeezing countries that are in the midst of depression. At some point there has to be a growth strategy in order for them to pay off their debts. To eliminate some of their deficits. Ecco, su CNN Farid Zakaria chiedeva al presidente una reazione alle elezioni greche, il pericolo per l'euro, eccetera, eccetera. E Obama dice: non si può continuare ad opprimere senza dare speranze per la crescita. Torniamo al motivo di fondo, questa volta lo dedica direttamente all'Europa. E attenzione, dico l'Europa perché il messaggio non era per Atene, ma per l'intera Europa. Barack Obama poi l'ha sottolineato: noi vogliamo che l'Europa si aggiunga al locomotore che fa da traino alla crescita mondiale. Ecco, questo è un messaggio che dall'America è ricorrente da almeno 2 anni a questa parte. E chissà che davanti ai risultati in termini di occupazione e miglioramento dei conti pubblici, non si faccia strada anche in Germania l'idea che un passaggio dal pedale del freno a quello dell'acceleratore sia nell'interesse di Berlino, oltre che in quello dell'Unione Europea tutta. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di redistribuzione dai ricchi ai poveri, il vecchio motivo di Robin Hood. Dunque, pensando alla canzone del giorno, mi sono ispirato a questo vecchio grande classico tratto dal cartone animato di Disney, appunto Robin Hood and Little John. Reminiscing this and that and having such a good time. Oodle-lolly, oodle-lolly, golly, what a day. Never ever thinking there was danger in the water they were drinking, they just guzzled it down. Never dreaming that a scheming sheriff and his posse was watching them and gathering around. Robin Hood and Little John running through the forest, jumping fences, dodging trees, trying to get away. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.